You're listening to Rock FM. Quante se ne scoprono giorno per giorno grazie a pane, burro e rock and roll. Oggi ci occupavamo del signor Les Paul, un grande artigiano. Oltre ad aver inventato la celebre chitarra di marca Gibson, forse, ipotesi A, è nella classifica dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. Beh, direi che effettivamente ci Suspense incredibile che mi crea. Segnaliamo che è alla posizione numero 46, subito dopo Frank Zappa. Quindi, insomma, il grande liutaio. E anche un signor smanettone. Esatto, è anche un grande chitarrista, oltre che grande liutaio. Sarebbe curioso andare a controllare se Leo Fender c'è in questa classifica, ma non credo. Quindi chissà. Complimenti al signor Les Paul. Complimenti vivissimi e vivacissimi. Ha determinato la storia del rock. Eh sì. eccola qua, una delle Les Paul più famose del rock and roll, la di Slash, Guns N' Roses di Sweet Child O' Mine. Visto che ci siamo occupati del signor Les Paul, quest'oggi abbiamo scoperto grandissimo smanettone. Ringrazio Andrew che via SMS mi segnala che invece le Offender, le Raminga Bone, non sapeva suonare, quindi giustamente segnalo anche Page, che già nel 59 usava una Les Paul, e ringrazio Wacky da Bologna per la segnalazione via SMS. Dice: siamo in periodo elettorale, per par condicio bisognerebbe sentire anche le Zeppelin, però le abbiamo ascoltati qualche minuto fa e quindi giustamente abbiamo ceduto il passo al buon Slash. 8:37 minuti primi, la colazione servita calda e fragrante, come avrebbe detto il buon Chuck Bird dalle frequenze di Rock FM. Proseguiamo con i Doors di Light My Fire. 335-100-7777, numero di SMS, sempre il solito. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Ho come il sospetto. Eccolo, dagli occhi di Spadino. Oddio sì. Mio, è come lui. Il sospetto che sia arrivato il momento del collegamento sì. Con il nostro giovane punto di riferimento, la finestra di pane, burro e rock and roll. Sui giovani metallari. Sui giovani di oggi. Pronto? Pronto? Pane, burro e rock and roll. Eccolo, Francesco. Pane, burro. Cos'è una? Una giovane teppista. È una nuova interpretazione, Francesco. Sì, è l'inno, Ma l'inno, ragazzi, qua. Dalla sigla l'inno, bravo. È l'inno, sono sceso in politica. Ma no. Aia, anche non tu. Non hai nemmeno l'età per votare. Domani lo voglio scritto su tutti i giornali. Che cosa? Francesco scende in politica. Francesco scende in campo. È l'inno, è politico, scende sì. In campo. Scende in campo, Francesco. E l'inno politico come potrebbe essere? È l'inno, te lo canto prima. Pane, burro, e Glielo lasciamo, Frank. Sì, glielo prestiamo. Detto, Cristina Scabbia che lo viene a cantare. Addirittura, ah, la cantante dei Lacuna Coil? No, però, gli ho detto che sta attivando da me. Hai detto? Che sta lontana da me perché c'ha la Scabbia. No, quello è il suo cognome, Francesca. Bella battuta comunque. Okay, se ci sta ascoltando, sarà felice. Avete un simbolo? Intanto il nome è il PDM. PDM. Partito della musica. Il metal. No, partito del metal. Esatto. Ah, no. Lo sapevo, stavolta ci ho azzeccato. Sì, bravo, Frick. Una volta tanto. Senti, Francesca, avete anche un programma per questo partito? Sì, il programma allora. Metal? No, sì. Birra metal? Sì. Ma dai, ma Francesco, molto rock. Mi ha suggerito un amico mio, se a me mi frega un cazzo, sei culi. Tu avresti fatto solo metal. Solo metal. Senti, ma avete degli alleati, avete delle persone che contribuiscono, che sono d'accordo con la sigla PDM? Che aiutano la vostra coalizione? Allora, alleati ci abbiamo. Sì. Il PMO? Sì. PMO, il partito dei metallari oltranzisti. Sì. Bene. Sì. Poi ci abbiamo l'MFI. L'MFI? Sì. I metallari stronzi italiani. Sì. No, Francia. Poi praticamente come opponenti ci abbiamo. Sì. Che sinceri. Il PPP. PPP. PPP. Il partito dei pancabestie che puzzano. Sì. Sì. Esatto. Complimenti. Sono onesti però questi giovani. Io non oso immaginare, tu te li stai inventando sul momento, Francia, ovviamente. No, esiste. Stavo a leggere le candidature. Sì, leggile. Non credo tu possa battere il PPP comunque. No, aspetta, perché noi abbiamo l'alleato definitivo. Che è? Dunque, la lista si chiama RJD XI. Sì. Ronny James Dio per l'Italia. Sì. Quindi questo vi aiuterà nel vincere. Sì. Ok. Lui spacca il culo. Perché prende i voti anche dei cattolici. Esatto. La storia di Dio. Soprattutto sì. Quello. Esatto, Senti, aspetta, scusa. Sì, no, dimmi. C'è un amico mio qua. Sì. Dici PDM. No, ma che merda, il PDM non è il partito della merda. Eh no, è il partito del metal. E faccio magnare a me. No, Francesco, non fare casino col bambino. Non diventare violento. Non picchiarlo, pronto. Non si fa. No, non farlo. No. Fermo. Pronto. Tratteniti. È caduto la linea, Frank, mannaggia. Non fargli male. Basta mobbing. Io mi iscrivo al PPP. Partito pancabestie che puzzano, mi piace. Beh, io preferivo, guardi, quello RJDX per il Ronny James Dio per l'Italia. Italia. Mi piaceva, è suggestivo. Leave me be. Take out all my fury and my spine. momento. Rogna, cosa fai? Destino, fortuna, colpo di culo, chiamalo come vuoi, frigo, ma finalmente il grande solo Angus Young tornerà a vivere in me, nel mio corpo. Rogna, ma ti devo chiedere tutte le volte se sei scemo? grazie, ma capiscimi bene, nel mio corpo. Ah sì? E come mai proprio in te? Perché ho perso un dentino che ho messo sotto il cuscino. Ti piace la rima? E domani sono sicuro di trovarci calzoncini e la chitarrina di Angus, perché poi ho messo un biglietto vicino al dente e dunque lo spirito di Angus Young tornerà a vivere dentro di me. Rogna! E insomma, cosa vuoi ancora? Angus Young è ancora vivo! Sei sicuro? Sì. Merda. Meglio del rum. Posa la bottiglia categoria. Ma sono tutti sbronzi? No, no, no, no. Beh, pensavo Ozzy Osbourne. Alla mattina tu ci ascolterai, vedrai la vita, sorriderai. Sì, va bene, smetterò di bere, ascolto fare pure rock and roll. Ti do subito. Ultimo. No, no, no, no. E ci ringrazierai. Quando ti svegli la mattina ti devi ricordare di ascoltare Rock FM. Ok. Pane, burro e rock and roll. Uccidi io. Accendi in fretta la tua radio alle 7 del mattino, non ti dimenticare. Pane, burro, sì. Pane, burro, pane, burro, pane, burro e rock and roll. E su Rock FM. Così vicino cantava Sting con i suoi Police, Don't Stand So Close to Me, ed è così e arriviamo alla fine anche per quest'oggi di Pane, Burro e Rock and Roll, giovedì 20 marzo 2008, l'anno della svolta contro il muro. Archiviamo su RadioRockFM.com la puntata 208, bello fresco come il sole. Tra pochissimo arriverà anche Marco Garavelli, sigla! Che non posso nemmeno più chiedere a Spadino. Purtroppo avete saputo cosa è successo a Spadino, eh. Non ci posso fare niente io, ragazzi. Non è una situazione che posso controllare personalmente. Pane, burro e rock and roll. Quindi grissiamo, però lo salutiamo ovunque lui sia. La tua colazione rock. Come salutiamo Roberto Fricantoni e Rogna e Frigo. Pane, burro e rock and roll. Si risente domani dalle 7 alle 9 del mattino per un venerdì da leoni. Forse. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ed eccolo qui! Ah, perché ieri hai detto non c'è, torna domani. Invece c'ero, sono arrivato al pelo, ma c'ero. Scusatemi, sei arrivato tardi, io vado subito in preoccupazione se non ti vedo. Oggi ci sono, domani non ci sono. Perché non ci sei? Vado in settimana nera. Cos'è la settimana nera? Vacanza, cercare il petrolio, settimana nera. Non ci sono domani. Dovessi trovarlo, potrebbe essere interessante. Hai capito? Sei tu, questa sta storia che non ci sei domani? Domani non ci sono, l'avevo già detto a te. Ma c'è ok. Non ci sono domani. Donato in mente. Bazza quella del petrolio, è vero, speriamo. Dovesse andare bene, mi raccomando. Sì, devo trivellare nel mio giardino, non si sa mai. Si risente domani con o senza Garavelli. Ok, ciao. Sono le 9. Vorrei tanto essere altrove. Non ti preoccupare, che domani tornerà.